Storie italiane. Lady Daffodilia. C'era una volta, in un bel regno, una piccola donna di nome Daffodilia. Era allegra, carina e soprattutto molto alta. Sebbene avesse solo 14 anni, era già alta quanto sua madre. Questo la rese estremamente presuntuosa e se ne vantava di continuo con il suo migliore amico, il principe Brilliant. Principe Brilliant! Principe Brilliant! Smetti di urlare! Sono proprio qui! Oh, non ti vedevo dato che sei così basso! Non sei affatto eccezionale solo perché sei alta. Sono molto più intelligente di quanto tu sarai mai. E infatti lo era. Il principe Brilliant trascorreva molto del suo tempo a leggere libri e a studiare la natura e tutte le cose logiche. Ma queste cose annoiavano Lady Daffodilia e lei sbadigliava sempre, cosa che lo infastidiva moltissimo. Ah, oh, libri e libri! Dicono che l'intelligenza ti aiuta a vedere oltre ciò che è giusto di fronte a te. Ma sei così piccolo che puoi vedere solo la formica più alta. Sua madre, la contessa, si rivolse a lei con rabbia. Daffodilia, non parlare così ad un principe o con chiunque altro. E allora sei alta? Una giraffa è più intelligente di te. Brilliant. Non parlare ad una donna in quel modo. Il principe Brilliant fece il broncio. Lui e Lady Daffodilia si prendevano sempre in giro, ma oggi lei lo aveva proprio scocciato. Bene, sai cosa? Me ne vado e non tornerò finché non avrò trovato un modo per diventare più alto di te. Lady Daffodilia iniziò a ridere, ma quando vide che il suo amico era serio, si fermò. Oh, caro, stavo solo scherzando. Per favore, non andare. Ma il principe la guardò e se ne andò. Cercò di fermarlo, ma lui non volle ascoltarla. La regina e la contessa la sentirono piangere e andarono immediatamente da lei. Tesoro, cosa c'è? Ha detto che non tornerà finché non sarà più alto di me. Non ti preoccupare, bambina. Tornerà sicuramente. Lo ha detto solo per prenderti in giro. Ma Lady Daffodilia sapeva che il principe Brilliant intendeva davvero quello che aveva detto e che nulla gli avrebbe fatto cambiare idea. E così, quando venne la sera e il giovane principe non tornò, gli uomini del re vennero mandati in giro per trovarlo. Cercarono per settimane e mesi, ma non riuscirono a trovarlo. Il regno era senza un erede e Lady Daffodilia senza il suo migliore amico. Sono io la causa? Non avrei dovuto scherzare così tanto. Cosa faccio senza di lui? E così rimase nella sua stanza e cercò di leggere e imparare il più possibile, in modo da diventare come lui. Ma non importava quanto ci provasse, finiva sempre per confondere tutto quanto senza capire niente. Un giorno, sentendosi assolutamente senza speranza, andò tristemente in giardino. Questo fiore sembra che stia per morire. Stavo per iniziare a lavorarci. Un po' di magia dalle mie mani e tutto andrà bene. Quale magia? Fammi vedere adesso. Oh, dovrai aspettare per vederlo. Lady Daffodilia fu presto incuriosita dal modo in cui lavorava e iniziò anche lei ad aiutarlo. Meraviglioso, maestà. Penso proprio che abbia della magia nelle sue mani, sa? Non capì cosa intendesse il giardiniere, ma col tempo imparò presto a coltivare bellissimi fiori e piante. È tutto così bello! Ora crede nella magia! Presto prese tutta la sua tristezza e la trasformò in amore per i fiori. Nel frattempo, il principe Brilliant aveva fatto molta strada. Ora era stanco, assetato e affamato, e aveva raggiunto una strana foresta dove nessuno era mai stato. Uff! Cos'è questo? Una ragnatela? Oh, ce ne sono così tante! Oh oh! Oh oh oh! E perché non dovrebbero esserci? Questa foresta, dopo tutto, appartiene a me! Chi è? Me? Me? È il signor Longlegs! Ora, come ha fatto un giovane principino sporco come te ad arrivare in un posto come questo? Il piccolo principe Brilliant raccontò al signor Longlegs tutto di sé. E non tornerò indietro fino a quando non sarò diventato più alto di quella sciocca principessa. Bene, questo sembra interessante. E dal momento che conosco un modo per aiutarti, ma ci vorrà del tempo, forse anche degli anni. Non mi importa, aspetterò tutto il tempo necessario per diventare più alto di Lady Daffodilia. Va bene. Vedi quel cespuglio laggiù con le ragnatele di color arcobaleno? Tutto quello che devi fare è saltare in quel cespuglio. Questo è tutto? Sì. Entra e aspetta che io venga a prenderti. Il principe Brilliant era molto confuso, ma aveva tanta fretta di diventare alto che saltò immediatamente nel cespuglio con la rete del ragno. Uff, era così strano. Dove sono? Il principe Brilliant aveva raggiunto un posto molto speciale e magico. Era il luogo in cui i sogni giocavano e rimanevano insieme. Questo posto è bellissimo! Ciao! Benvenuto nel mondo dei sogni. Come ti chiami? Io? Il mio nome è... io non lo so. Il principe Brilliant aveva dimenticato il proprio nome. Vedete, il posto era pensato solo per sogni e giochi. E il piccolo principe sapeva solo studiare. Non aveva mai giocato a nessun gioco perché li considerava sciocchi. Presto iniziò a dimenticare tutto ciò che aveva imparato e solo pensieri sognanti gli riempirono la testa. Giocò e giocò con tutti gli spiriti dei sogni. Si era persino dimenticato di Lady Daffodilia. Un giorno il signor Longlegs venne a cercare il principe. Presto lo trovò che giocava e sorrise contento. Oh, oh, oh, oh, oh. Dov'è il piccolo principe che ho visto tanto tempo fa? Sembra che tu non sia più piccolo, eh? Di cosa stai parlando? Ti ho visto solo 2 giorni fa. È davvero questo quello che pensi, mio caro ragazzo? Sei qui da 5 anni. È ora di tornare a casa. 5 anni? Penso che sia giunto il momento di lasciare questo sogno. Uop! E in pochi secondi il principe si ritrovò a cadere e cadere. Cadde su un prato così morbido e fresco, in un giardino che era incredibilmente bello. Io? Ora ricordo. Ho lasciato il regno per diventare più alto di Lady Daffodilia. Ma mi chiedo se sono diventato più alto. Proprio in quel momento venne una giovane donna. Era estremamente bella e delicata nel suo modo di camminare. Oh, principe Brilliant! Lady Daffodilia! Si abbracciarono calorosamente e sentendo le loro urla, la regina e la contessa si affrettarono fuori. Furono estasiate nel vedere il principe Brilliant. Oh, figlio mio, sei tornato a casa? E come sei cresciuto? Oh. Dove sei stato tutto questo tempo? Abbiamo cercato e cercato senza riuscire a trovarti. Il principe Brilliant raccontò loro tutto della sua avventura. Loro ascoltarono attentamente tutto quanto e gli diceva: che storia divertente. Bene, qualunque cosa sia, siamo felici di averti a casa. Ma, figlio mio, sembra che tu sia diventato più dolce di prima. Più... Gioioso? I raghi sono tutti impegnati a tirarsi le gambe a vicenda. Perché pensi che siano così lunghe? Ha forse fatto una battuta? Difficile da credere. Di chi è questo giardino? È incredibilmente bello. È mio. Ho cresciuto tutto questo. Dopo che te ne sei andato ero così triste e ho cercato duramente di imparare a diventare come te. Leggevo cose nuove ogni giorno, ma nulla mi è mai rimasto in testa. Mi dispiace così tanto. No, mi dispiace di averti lasciata sola per tutti questi anni. Avevo troppa fretta di crescere, ma ho scoperto che crescere richiede tempo e puoi anche crescere in modi diversi. Il principe Brilliant la guardò e sorrise. Sei intelligente e sorprendente a modo tuo. Per quanto geniale possa essere, non potrei mai coltivare un giardino magnifico come questo. E non lascerò mai più la mia dolce e allegra Lady Daffodilia. Vedete, non importa davvero se uno è più alto o più intelligente. In tutte le persone si trovano talenti di tipi diversi. Mentre Lady Daffodilia aveva imparato ad essere più gentile e aveva trovato il suo talento, il principe Brilliant aveva imparato che lo studio non significa davvero tutto. Un po' di divertimento è sicuramente necessario per crescere nel miglior modo possibile.